vai. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Sta radio Chenoir, io francamente non me la ricordo. Radio anni 80, mi ricordo, te ricorderai pure te, mi ricordo, mi viene in mente una cabina del telefono a Torvaianica, perché tutte le volte che tornavamo da qualche cazzata, da Roma, eccetera, che sentivamo ste radio a messaggio libero, non so se te ricordi, aveva iniziato Radio Radicale, no? Che chiamavi e dicevi quello che cazzo ti pareva, e poi l'avevano fatto tante altre, Radio Spazio Aperto, Radio, non mi ricordo, ma insomma mi ricordo sta cosa che se fermavamo, mettevamo il gettone, chiamavamo e la dedica più o meno era sempre la stessa. Sì, ciao, buonasera, vorrei dedicare tanto il prossimo brano all'anima di Meglio li mortacci tua, brutto stronzo. Era sempre così, insomma, perché eravamo dei coglioni negli anni 90, dei cazzoni. Il grande reset. Un programma con l'occhi da matto. E Simone Pizzi. Sì. Ah, belli de casa, benvenuti in questo nuovo episodio del Grande Reset. Questa mattina, come avete capito, insomma, il tono sarà un po' più leggero, o magari comunque anche legato ai nostri sentimenti, a qualcosa che ci emoziona, ma in generale comunque saremo leggermente più easy rispetto a quello che era il tenore di Buongiorno un cazzo. Sarò molto veloce perché ovviamente le dediche sono tante e insomma c'è tanta roba, tanta carne al fuoco, e c'è anche un racconto dietro tutta questa storia. Vi ricordo, vado proprio diretto al punto, che questo mese ci abbiamo avuto proprio il picco basso totale delle entrate di Spreaker, quindi insomma se volete contribuire al progetto Runtime Radio siete i benvenuti, naturalmente grazie insomma a una donazione su PayPal e utilizzando la mail runtimeradio@gmail.com, e con questo insomma ci aiuterete. Questa sera dovrebbe esserci Runtime by Night, ma sarà quasi sicuramente domani sera, mentre che la diretta con Michela di Disordinati Informati non sarà sabato mattina alle 8:30, ma domenica mattina sempre alle 8:30. Detto questo, si parla di dediche in questo episodio, ma non soltanto si parla di dediche, ci sono le vostre dediche, sono tante, quindi il racconto sarà più breve del normale, ma ci sarà, perché ovviamente ci sono diverse storie da raccontare su questo tema, perché ovviamente l'ho scelto per motivi anche miei personali, anche legati a dei ricordi. Quindi io partirei subito, immediatamente, con le dediche. Ciao Runtime Radio, sono Simona degli Scimmioni Non Leggono Nietzsche e vorrei dedicare Voilà di Barbara Pravi a mia figlia Costanza, che da poco ha compiuto 14 anni. È stata lei a farmi conoscere questa canzone, arrivata seconda all'Eurovision nel 2021. E in quell'occasione Barbara Pravi, secondo me, ha troppo puntato su un'interpretazione teatrale, molto declamata, con il risultato che la canzone ha perso in verità. Molto bella invece trovo l'interpretazione registrata, quella del video ufficiale, peraltro molto ben fatto. La canzone è un appello a essere ascoltati, a essere visti, a essere amati così come si è. Ecco, un messaggio che va bene per tutte le età. Dedico dunque questa canzone Voilà di Barbara Pravi a mia figlia e a tutti gli adolescenti che vogliono essere ascoltati, ma anche a noi adulti, perché il bisogno di ascolto è un bisogno che proviamo tutti. Grazie mille. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires. Voilà. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. Amici del Grande Reset e dell'occhio da matto del conduttore Simone Pizzi, io una canzone, un brano lo voglio dedicare a tutti gli amici di Runtime Radio, soprattutto quelli che si avvicinano alla mia generazione, e visto che una marchetta la voglio fare trash, perciò vi dedico la radio 1000 watt degli 883. E queste sono le prime due dediche, andiamo a due ragazzi. La radio 1000 watt, devo dire la verità, io non l'ho mai sentita, però poi dopo ascoltando il ritornello sì, probabilmente l'ho sentita, cioè occupa qualche spazio nei miei neuroni. Sapete come funzionavano le dediche nelle radio tempo fa? Cioè tipo prendiamo ad esempio Radio Subasio, no? Non so se lo ricordate, Radio Subasio negli anni 90 all'inizio non faceva come fanno le radio oggi, che poi alla fine anche questa è un'altra testimonianza della grande transizione tecnica, tecnologica, segno proprio dei tempi, no? Relativi a il modo in cui la gente vuole prendersi quel piccolo spazietto, no? Perché una volta si mandavano le cartoline alle radio, non so se voi ve lo ricordate, si mandavano le cartoline e tu sapevi che quel giorno a quell'ora c'erano le dediche e quindi ascoltavi la radio sperando che toccasse anche a te, dove tu ovviamente nella tua cartolina, che si sperdeva tra mille altre cartoline, dedicavi quella canzone a quella determinata persona che avevi conosciuto al mare durante la vacanza e via dicendo, sperando a sua volta che quella persona ascoltasse la stessa radio proprio in quel momento. A volte penso abbastanza irrealisticamente, però tutto sommato ci poteva anche stare, no? Scusate, mi alzo le cuffie perché sennò non sento una ceppa. Questa cosa delle dediche, secondo me, è diventata a un certo punto un legame stretto con l'ascoltare la radio proprio, soprattutto ovviamente le piccole radio private. Poi questa cosa da nazionale è diventata anche più locale, proprio perché secondo me si creavano certi tipi di legami, certi tipi di raccolti, affezioni, diciamo così, tra ascoltatori e radio, proprio laddove c'era più possibilità di essere anche intercettati, no? Cioè nel senso comunque che il tuo messaggio arrivasse a qualche cosa. Però, come diceva giustamente Christian, che diamo il benvenuto in Dirette Runtime, compagno di grandissime avventure, ma proprio nel senso proprio più letterale del termine, alla fine negli anni 80 in particolare c'è stato un momento in cui le radio, anche nella loro forma sperimentale, hanno provato a dare voce, quindi nel modo più meno commerciale del termine, no? Cioè tipo non su Basio, Latte e Miele e via dicendo, ma io parlo anche quelle radio che magari in qualche maniera hanno veramente provato a dare la possibilità alle persone di farsi ascoltare per radio, che in quel momento era comunque anche c'era un'enfasi dietro, no? Tu magari, se tu mandavi un messaggio a una determinata radio, era figo perché ti emozionavi magari al sentirti il fatto che era il tuo messaggio, il tuo pensiero che tu magari avevi detto, e non doveva essere necessariamente una dedica a qualcuno, no? Cioè nel senso, non è detto che questa cosa doveva essere, che ne so, una dedica d'amore, poteva anche essere un'espressione politica. E come diceva giustamente Val e Christian nella sua introduzione, per esempio Radio Radicale è stata una di questi. Il Partito Radicale, se voi vi ricordate, molti lo consideravano un partito di estrema sinistra, ma in realtà il Partito Radicale era un partito ultraliberale, non liberista, liberale proprio nel senso più puro del termine, quindi diciamo che non apparteneva esattamente a una cultura socialista o socialdemocratica. Però ciò nonostante, che alcune battaglie sono state fatte insieme proprio perché c'erano alcuni principi dal punto di vista della libertarietà, diciamo così, che erano abbastanza condivisi magari in certe situazioni. Radio Radicale aveva questo momento che poi veniva trasmesso di notte, e loro avevano una segreteria telefonica con un numero, segreterie telefoniche, ragazzi, ve ricorderete, insomma, no? Quelle macchine che ricevevano la telefonata, rispondevano al posto tuo con un nastro, registravano. Quindi voi immaginate una cosa trasmessa per radio da una cassettina che era piena di telefonate delle persone, e se come concettualmente questa cosa poteva essere interessante, in realtà poi alla fine finiva per essere un mare di bestemmie, cioè la maggior parte delle volte. Infatti poi non so quanto sia durata, anche se alcuni mi hanno detto che anche in tempi recenti ancora resisteva questa cosa. Però ecco, io mi ricordo una situazione molto imbarazzante in macchina di notte con mio madre, mio padre e mio fratello, e mio padre aveva messo sta Radio Radicale dove c'era sta cosa delle perché loro non censuravano niente, quindi loro compriavano la segreteria telefonica, la mettevano a manetta, e la quantità di bestemmie che ho visto, che ho sentito praticamente in quell'occasione, con mia madre che diceva ma leva questa cosa, e c'era ovviamente sto tifoso del Verona che diceva delle cose ignobili sul fatto che c'era la Roma che doveva andare a giocare a Verona, e diceva delle cose, ragazzi, io penso di essermi portato la colpa di quello che ho sentito per tutto il resto della mia vita. E adesso andiamo con altre due dediche. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Ciao, sono il Capitan Keitaro di Radio Anziano e voglio dedicare questa canzone che si chiama Contro la ragione dei Verdena, tratta dal disco End Cadence volume 1, innanzitutto a tutti i poeti decadenti che si sono opposti fieramente alla fine dell'Ottocento alla ragione, al positivismo. Poi a Gabriello, a cui piace molto questa canzone e l'abbiamo ascoltata spesso insieme, e anche i Verdena stessi, perché sono la mia band italiana preferita e abitano pure qua vicino. Ciao ragazzi, buon ascolto su Runtime Radio. Allora, io intanto buongiorno a tutti ascoltatori di Reset, anzi del grande Reset. Io sono Michela De Paola, sapete chi sono. Sarò breve perché ho deciso di fare una dedica un po' diversa, nel senso che molte delle mie canzoni, molta della mia vita è dedicata a mio marito e ci sta tutta, ma oggi voglio dedicare una canzone che è una canzone di Lauryn Hill che si chiama To Zion, a mio figlio Matteo, perché senza che poi mi emoziono, mi metto a piangere, perché comunque molto spesso do per scontato questo legame che ho con lui, e invece per me è veramente qualcosa di fondamentale, e sono felice di averlo nella mia vita, di vederlo crescere tutto sommato felice e spero insomma che la sua vita sia veramente unica. E quindi niente, gli vorrei dedicare To Zion, vorrei che lui potesse capire bene l'inglese e potesse capire bene il testo della canzone, perché comunque mi rispecchia molto la mia scelta di portare avanti questa vita con lui, insomma di portare avanti questa gravidanza nonostante la giovane età, e di crescere insieme, e spero insomma che lui possa sentire questa dedica. La bellezza di questa puntata sono le dediche, e devo dire che io mi sto divertendo tantissimo perché chiaramente oltre alla bellezza delle vostre dediche che tra l'altro si arricchiscono con la qualità delle canzoni rispetto alla scarsa qualità ok, aspettate che qua giustamente mi ero dimenticato di tagliare la coda, e vabbè, sono cose che succedono. Stavo dicendo, al di là di questa questione, insomma, delle vostre dediche, che la bellezza delle canzoni, quindi la qualità del suono, con invece il suono più sporco, ovviamente, delle dediche che arrivano, che chiaramente riportano un po' a, appunto, ai tempi in cui, voglio farvi... Vi faccio anche presente, io mi sto divertendo proprio perché in questa mattina sto facendo una trasmissione totalmente sperimentale, sto usando una rotazione prepianificata, ovviamente quasi semi-automatizzata, quindi io sto seguendo anche un po' il timing che mi dice il software, cercando di rimanere all'interno di un flusso che va costantemente senza io lo interrompa e lo faccia ripartire. Scusate. Comunque, dicevamo, dalle radio più grandi, insomma, dove tu speravi di mandare il tuo messaggio su quei programmi specifici, perché a quell'ora c'era manda la tua dedica alla persona che ami, alle radio più locali. Le radio più locali poi avevano un problema di fondo, cioè nel senso una minore capacità dal punto di vista delle risorse tecniche, anche organizzative, perché ovviamente erano su situazioni più ridimensionate e allo stesso tempo di conseguenza ovviamente meno filtro da un certo punto di vista. Ed ecco, questo lo raccontava un po' Cristiano proprio all'inizio del suo intervento, quando lui, insomma, nel presigla, quando ho messo quell'audio un po' alla traditora, che dovrei chiedergli scusa, io di solito non lo faccio, però era troppo bello, quel pezzo l'ho dovuto mettere. E arriviamo proprio a quelle radio locali, in particolare io parlo ovviamente della mia realtà, la realtà romana, e proprio Radio Spazio Aperto è una di queste, perché ovviamente a volte non avevano una redazione, c'erano gli speaker, la regia, e di solito il ragazzo che stava alla regia era anche quello che rispondeva al telefono: pronto, chi è? Sono Simone, posso andare in diretta? E quelli dicevano sì sì, e tu intervenivi ovviamente nel programma. E molte di queste radio hanno fatto la fortuna, ovviamente, sul diciamo, tra virgolette, la loro fortuna, proprio sul fatto dell'interazione, sul fatto che magari facevano dei programmi tipo questo, magari si parlava di un tema oppure non si parlava di niente in particolare, e a un certo punto, o per quasi tutto il tempo della trasmissione, si aprivano le dirette. E anche le dirette erano una forma di dedica, perché insomma tante volte quando non c'era un tema specifico, magari posso salutare Tizio, posso salutare Caio. E la maggior parte delle persone in qualche maniera, insomma, usavano un proprio comportamento, diciamo una propria educazione civica rispetto a queste radio. E invece c'erano altri, ma come, insomma, penso che sia successo a tutte quante le radio, che di questo comportamento se ne fregavano, cioè veniva, insomma, usciva fuori la parte più goliardica, ecco, diciamo così. E la parte goliardica ovviamente è un po' come la prima volta che ti arriva, che ne so, Alexa dentro casa, la prima cosa che gli dici sono le parolacce, cioè nel senso è la stessa cosa succedeva con queste povere radio, che chiaramente non si potevano difendere, se non ovviamente oggi perlomeno anche le radio che non hanno tanti filtri possono mettere comunque il blocco sui numeri telefonici, possono, insomma, trovare tante soluzioni. Poi sai, quando magari si abituano a sentire una determinata voce, ti riconoscono, magari non ti mandano in onda e via dicendo. Però insomma capitava che, come diceva Christian, tu telefonavi e dicevi affanculo, affanculo, e quelli si incazzavano e tu ridevi come un matto perché avevi fatto sto dispetto incredibile, ed effetti era molto cretino. Ma mi ricordo che una volta a Radio Spazio Aperto, proprio il giorno di Pasqua, eravamo a Marina Piccola, al posto al mare da me, eravamo io, Vincenzo Solazzi, un mio carissimo amico, e Daniele Palmisano, e non ci eravamo andati lì così a rompersi i coglioni, c'eravamo da soli praticamente, e mi ricordo che c'era questa trasmissione Radio Spazio Aperto. Successivamente a questa trasmissione, in teoria ci sarebbero dovuti essere il Trio Medusa, quando il Trio Medusa ancora non erano particolarmente famosi, e quindi aspettavamo il Trio Medusa, che faceva le canzoni dei cartoni animati, facevano le battute e via dicendo. Quindi quando questi stavano lì, dicevano se volete, insomma, l'ultimo momento della trasmissione, gli ultimi momenti, volete telefonare, noi c'avevo il telefono, prendiamo e telefoniamo. La prima cosa che diciamo: ciao, chi è? Sono Simone, sto qua al mare con gli amici miei, Vincenzo e Daniele. Ah, capito, che state facendo? Niente, ma volevamo fare una domanda. Dice sì, quando finisce questo programma? E quelli: ah beh, dai, non mi sembra una domanda carina. Eh no, perché volevamo sapere quando finiva. cioè finisce fra poco, fra non molto, ah meno male. Quindi, ma scusa, ma si incazzavano giustamente, cioè, no perché noi volevamo il Trio Medusa, cioè, ma guarda il Trio Medusa stasera non c'è, ah, vabbè allora spenga la radio, cioè, giustamente. Poi dopo un po' così, tanto se stavamo a rompere le scatole, continuavamo a sentire questa trasmissione anche noiosa, perché non si sa veramente di che stavano a parlare, forse praticamente di niente come in questo momento io. E gli abbiamo cominciato a telefonare, gli abbiamo detto siamo sempre noi, ah siete sempre voi, ah birboni, insomma. Cioè, no, ma noi volevamo, perché non sappiamo cosa fare, perché siamo qui, siamo da soli, siamo depressi, è un momento brutto. Insomma, cioè, ancora abbiamo cucinato a casto Pippone e questi prima di salutarci dicevano mi raccomando, comportatevi bene, non fate stupidaggini, perché aveva evidentemente paura che si ammazzavamo. Vabbè, uno spot e altre due dediche. Dal 24 gennaio torna Runtime Radio Horror Night, un momento di puro terrore con i racconti di Taste the Fear. Preparati ad urlare ogni martedì sera alle 21 su runtimeradio.it. Segui Taste the Fear anche su YouTube. Ciao Simone e ciao a tutti gli altri ascoltatori del Grande Reset. Mio caro, ti chiedo di mettere come prossima traccia Reasons dei Pain of Salvation dell'album In the Passing Light of Day, un grandissimo disco di una meravigliosa band, e questo pezzo lo voglio dedicare alla mia fidanzata Rihanna, che è una loro fan sfegatata. E niente, buon ascolto a tutti quanti e grazie mille per questa opportunità. Lo so che poi uno rompe le scatole, visto che sono anche diventato papino, però la dedica di oggi, una dedica breve, la voglio fare a quello che sarà mio figlio quando avrà 18, 20, 25 anni, e perché non credo che non potrò mai vederlo avere la mia età, perché sarò morto, anzi probabile che sia morto anche quando avrà 18 anni. La canzone che ho scelto è Voce di Madame, che è una canzone che racconta la fine di una storia di amore. Dove è finito l'amore? E vorrei raccontare a mio figlio, ma anche a tutti quelli che in qualche modo si sono sentiti tali, che la fine di una storia d'amore non deve stare a indicare, a significare il fatto che abbiamo fallito qualcosa, è semplicemente qualcosa che non ha funzionato, perché colpevolizzarsi e autoflagellarsi per non essere riusciti a portare avanti una cosa a due è solo autodistruttivo e non fa bene alla salute. Per cui un abbraccio fortissimo e un buon ascolto. Mi ricordo di te. Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto la mia voce. Che non siamo tornati. E per sempre sarà, sì, per sempre sarà che tu sei la mia voce. E rieccoci qua, va bene, queste sono le altre dediche. Adesso invece vengo a raccontarvi del perché ovviamente questa canzone, sì, questa puntata si chiama Radio Chien Noir, anche se Radio Chien Noir sarebbe una parola in francese che non solo non so cosa significhi, ma soprattutto non so come si scrive, quindi diciamo, e secondo me neanche chi la utilizzava sapeva come si scriveva o come se e che cosa significava, però gli piaceva evidentemente, hanno detto sai che c'è questa qua, oggi è Radio Chien Noir, capito, non mi fa un cazzo d'asso. Va bene, questo praticamente a Roma durante gli anni 90, diciamo, anni 80-90, c'era questa piccola realtà che va un po' premessa. Diciamo che secondo me era, cioè da quello che ho capito io, e anche interagendoci, diciamo così, era una sorta di associazione di anziani che era una di quelle associazioni tipo magari nata in qualche balera, in qualche cosa, sai quei posti dove gli anziani si fanno compagnia fondamentalmente, magari anche legata a una casa di cura, io non lo so bene ragazzi perché non l'ho mai capita sta questione, ma era comunque una radio dei vecchi, E praticamente che succedeva? Succedeva che la sera in particolare, perché non è che durante il giorno mi mettevo a sentire Radio Chien Noir, premesso che io non so neanche quanto fosse legale, magari era tollerata proprio perché comunque era un'operazione legata insomma al al volemos e bene, ecco, diciamo così, cioè nel senso che magari era comunque una sorta di piccola opera di beneficenza, io non lo so bene come funzionava, però fatto sta che la sera quando uscivamo con un mio amico Alessandro Fiori, che saluto, insomma sulla la Pizzi Mobile, perché noi ci avevamo con la mia azienda, quella di mio padre, ci avevamo una Panda con la scritta Pizzi Assicurazioni di là, no? E questa Panda praticamente ce l'abbiamo fatto di tutto, siamo andati veramente per buroni praticamente. E quando a volte non sapevamo che fa, accendevamo, se mettevamo sotto casa, facevamo una fumatina e sentivamo sta Radio Chien Noir. E sta Radio Chien Noir praticamente erano... c'era un tizio che stava dentro ovviamente questo stanzino, questo studio radiofonico, penso abbastanza piccolo, approssimativo, e rispondeva tutto il tempo alle telefonate. Le telefonate, praticamente lui era un tizio un po' tontolone, cioè nel senso, sai, quelle persone non proprio sveglie, cioè probabilmente insomma era il motivo per cui gli facevano fare sta cosa, perché magari stava là, non gli davano una lira, lui si accontentava perché era contento, però era cioè era anche bravo in quello che faceva, tutto sommato era un tontolone, cioè, però un tontolone di quelli positivi, non era un tontolone di quelli noiosi o insomma, lui era allegro, era tutto contento, gli faceva piacere, e lui rispondeva praticamente alle telefonate, e le telefonate erano tutte telefonate dei vecchi che salutavano altri vecchi e che dedicavano le loro canzoni a gli altri vecchi, no? Cioè, pronto, chi è? Ci sono Nina. Ciao Nina, come va? Ho fatto la cataratta. Ciao, è andato tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Sto un po' così, un po' acciaccata. E fa, ah, ho capito. E che mi dici? No, magari parlavano un po' di cazzi loro. Ma ho detto, senti, io volevo dedicare una canzone, come scegli la tu, non fa niente, di Claudio Villa. Claudio Villa, prendi Claudio Villa, si sentiva lui che cominciava a sfurguiare, no? Sentivano le cassette. Aspetta, cerca la cassettina di Claudio Villa. E poi ficcava sta cassettina sul registratore, alzava il cursore al mixer e si sentiva una canzone. Vabbè, comunque, prima della canzone volevo salutare anche Eugenio, che so che ha fatto la prostata. E insomma, è tutto così. Tu dici, ah, ma cazzo da ascoltare a fa? Ma ascoltavo perché in fondo, voi lo sapete che io sono sempre stato un curioso, cioè proprio per me c'è proprio, c'ho una visione antropologica delle cose che vedo, cioè proprio voglio capire come funzionano le cose, perché. Però poi dopo ovviamente con la fumatina insomma uno diventava lo stupido che è sempre stato, perché poi dopo, cioè a me, e dato che lì veramente non c'erano filtri, cioè quello addirittura rispondeva al telefono con già il telefono, già, cioè si sentiva il telefono che squillava. Lui metteva la cornetta su un dispositivo evidentemente che c'avevano, quindi praticamente c'è una sorta di microfono e non so il cazzo insomma, e praticamente lui, cioè, quindi tu andavi subito in diretta, cioè, chi è adesso? So Simone. Ah Simone, ma è una voce nuova, non mi sa che non te conosco, eh. Sì, no, te volevo dire che ti andai a fanculo, queste cose così. E poi dopo alla fine però, una volta, due volte, tre volte, tutti a ride, noi ridevamo di sta cazzata, no? Cioè ci faceva proprio ride, non so perché ci faceva ride, però ci faceva ride. Però una sera, io poi guardando Alessandro, gli ho detto, senti, io mi sento in colpa, cioè nel senso, ma perché, cioè questi alla fine, perché devi andare a rompere il cazzo a dei vecchi che si sono fatti una cosa per loro, no? Sì, è vero, stai per radio, quindi ti possono ascoltare tutti, no? Tanto che una sera poi io volevo dire una cosa, però non mi hanno fatto intervenire, perché ho telefonato, lui c'era un altro che non era sempre il solito tontolone, anche se evidentemente stava lì apposta. E gli ho detto, no signore, dice, guarda, tu non fai parte dell'associazione, quindi purtroppo la nuova regola è che non puoi intervenire per radio. Dice, no, ma io volevo dire che mi volevo scusare. Dice, no, guarda, mi dispiace, però è una regola, così non. E da lì in poi io non ho più potuto partecipare a Radio Chien Noir, che era questa radio meravigliosa che andava la notte insomma sulle frequenze a Roma, dove sentivi ovviamente Eugenia che purtroppo ha fatto l'operazione all'anca. E poi, cioè, non, questo lo so, è brutto, raga, io lo so che è brutto, eh. Però ogni tanto qualcuno moriva di questi. che canzone dice, io veramente non lo so che bruttezza c'è dentro il mio animo. Comunque ogni tanto qualcuno di questi moriva, ok? E quindi nel morire purtroppo, cioè nel senso, c'erano ogni tanto delle telefonate tristi, gente si commuoveva, si metteva a piangere e dedicava la canzone dei Little Tony, che ne so, cioè una canzone triste all'amico che se n'è andato, ed era veramente una roba un po' così. Un salutone da Yasmina a tutti gli ascoltatori di Runtime Radio. Niente, sta canzone la dedico a Simone Pizzi e a Umberto Parisi dei Beceri Videoludici, perché capirete il perché. E se non lo capite, Simone, prego, spiega, quando capirai anche tu, perché forse all'inizio non capirai, ma poi capirai. Ciao. A scuola ti servo. Vabbè ragazzi, è stata così, insomma, avrei voluto raccontarvi tante cose, solo che non mi sono neanche reso conto che ovviamente tante dediche significava anche meno spazio, meno tempo per raccontare. Però l'intento di questa puntata non voleva essere poi necessariamente quella di dover raccontare. Ho condiviso con voi questa cosa che mi porto dietro da tantissimi anni, che è quella di Radio Chat Noir e di tutte le radio di notte, soprattutto nella capitale, perché la notte a Roma, se volevi, c'era tanta roba da ascoltare, tante talk radio, tante riflessioni. È un mondo dal quale ho imparato tanto e dal quale ho appreso la fascinazione del fatto della radio di notte, che cerchiamo di condensare in Runtime by Night, che come ho detto non è questa sera ma probabilmente sarà domani sera. Quello della radio è un mondo che a me ha sempre affascinato, che l'ho declinato in tantissime cose nel periodo del baracchino, della Citizen Band, nel registrare le cassettine quando ero ragazzino con la mia voce che raccontavo cose, nel fingere di fare telecronache quando vedevo determinate partite o determinate cose. Quindi l'utilizzo della voce come strumento narrativo, di narrazione, qualcosa che alla fine comunque ha sempre fatto parte della mia vita fondamentalmente, ed è per questo che io sono felice di Runtime Radio e sono felice di condividerla con voi e soprattutto di farla con voi, perché se non ci fosse tutto questo ambaradam di persone che girano intorno con i loro problemi, con le loro difetti, con le loro distorsioni, con la loro musica, con le loro cose anche positive e soprattutto le cose positive, probabilmente mi limiterei a fare ogni tanto qualche podcast qua e là. E invece questa qui è Runtime Radio, la nostra web radio geek, che della quale siamo assolutamente orgogliosi e felici di tenere in piedi in qualche maniera. Vi ricordo www.runtimeradio.it, trovate il pulsante Anche Io, dove potete trovare le varie formule per contribuire e sostenere questo progetto dal punto di vista economico. Ma se proprio non vi va di sbattervi, andate su PayPal e inviate una donazione a runtimeradio@gmail.com, soprattutto questo mese, perché ovviamente è stato un mese difficile come un paio di mesi fa, poi insomma le cose sono purtroppo sono troppo fluttuanti. Detto questo, grazie per le vostre dediche, grazie di aver partecipato, grazie di esserci stati. Spero che nella sua forma un po' strana questo grande reset in qualche maniera vi doni ogni volta un venerdì un qualcosa, un'esperienza diversa, un modo diverso di fare il programma, e quindi ovviamente magari di farvi riflettere, farvi ricordare oppure farvi divertire in qualche modo. Detto questo, io vi ringrazio, grazie a tutti quanti per esserci stati, grazie a tutti quelli che hanno fatto appunto le dediche e tutti quelli che sono stati in chat. E mi permetto di ringraziare ovviamente Cristian Spaccamaniccia, che non solo è entrato insomma nella grande famiglia di Dirette Runtime, ma forse con lui anche in qualche maniera abbiamo attraversato cose che sono similari, e che ci sarebbe anche piaciuto secondo me fare la radio insieme, però qualcosa l'abbiamo fatta. Vi ricordo che per quelli che ci ascoltano da tantissimo tantissimo tempo, che con Cristian facevamo quel progetto 213, che era quella sorta di ibrido sperimentale musica elettronica e narrazione, che andò su Italian Podcast Network, che poi non riuscimmo a portare avanti proprio perché l'impegno per costruirla era veramente enorme. In merito a questo mi permetto anche di ringraziare Ermanno Manzetti, che era la voce narrante di quell'esperimento. Bene, detto questo ragazzi, buon fine settimana a tutti, e mi raccomando, cercate insomma di stare in forma. Ah, la prossima puntata è una puntata totalmente dedicata all'intelligenza artificiale. Il mio contributo, la mia partecipazione sarà molto ridotta, perché è una mia intervista distribuita a tutti gli esperti di Runtime Radio, che potranno dare il loro contributo relativo ovviamente al deep learning e all'intelligenza artificiale. Detto questo ragazzi, grazie di esserci stati, ciao a tutti.